GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incendi sotto controllo, rientro degli sfollati anche sul Carso Sloveno, ancora fiamme in Varresi, alle frane minacciano la viabilità. Barzila, dall'annuncio della dismissione alla trattativa, la lunga vigilia del tavolo al Ministero per lo stabilimento di San Dorligo. Will regionale a congresso, a tricesimo arriva il leader nazionale Bombardieri, le urgenze per il sindacato, intervista con il segretario regionale Zorn. Covid, contagi in calo, ma sale il numero di ricoverati, in affanno il pronto soccorso, botta e risposta su Udine tra infermieri e direzione. Crisi idrica, prelievi abusivi dalla rete del consorzio Cellina Meduna, controlli difficili per la carenza di personale. Lignano e la spiaggia bollente, nella domenica più calda il Pienone nella località balneare. Il Mittelfest rende omaggio a Pasolini, c'è Paolo Fresu nello spettacolo sulle poesie di Casarsa, a Gorizia partenza funk per musiche di confine. Sport calcio, Udinese battuta dalla nazionale del Qatar, tennis, Passaro vince il Città di Trieste. Lunedì 25 luglio, sono le 7:19 minuti, Giampaolo Mauro e Maria Spezia in studio, uno sguardo al tempo che fa sul Friuli Venezia Giulia, cielo da sereno a poco nuvoloso, temperature registrate poco fa, Trieste 26,5 gradi, Ceborino 20 km orari, il vento che soffia da est-nord-est, il mare poco mosso, il mare ha una temperatura di 27 gradi, a Gorizia ci sono 26 gradi, a Pordenone 23, a Udine 24, nell'area montana a Tolmezzo 20 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 15 e mezzo, a Sappada 13 e mezzo, e ancora in quota a Forni di Sopra 17 gradi e mezzo, sul Piancavallo 15, sullo Zoncolan 16, sull'Ussari 15 e mezzo. Tornando sulla costa, Lignano 28, a Grado 26 e mezzo, con temperatura del mare 27 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, per gran parte della giornata il tempo sarà stabile con cielo sereno, poco nuvoloso, per temporanee nuvolamenti pomeridiani sui monti, gran caldo, specie di pomeriggio, in pianura, venti a regime di brezza in serata, probabili temporali a partire dalla Carnia. E finalmente rassicurante la situazione sul Carso dopo i furiosi incendi dei giorni scorsi. Le piogge di sabato notte hanno favorito il lavoro di spegnimento che ormai pare quasi completato. Ieri è rientrata anche l'emergenza sfollati che riguardava soprattutto il versante sloveno. Il peggio sembra passato, un po' di pioggia ma soprattutto un vento molto meno forte rispetto al previsto nella giornata di domenica hanno di fatto permesso di far rientrare l'emergenza, almeno per il momento. Il lavoro incessante di forestali, vigili del fuoco e protezione civile però continua. Nella serata di sabato, con la bora data in arrivo, avevano preferito evacuare 3 frazioni del comune di Savogna di Sonzo, non interessato dagli incendi degli ultimi 5 giorni ma molto vicino al fronte sloveno. Molti avevano trovato ospitalità da amici e parenti, una dozzina di persone ha invece dormito nella palestra comunale prima di rientrare nelle proprie abitazioni una volta che l'allarme era cessato. Merito anche della situazione in Slovenia, a pochi chilometri dal confine. Da Zerje, dove si vede la piana di Gorizia, ma anche tutto il Carso italiano e sloveno bruciato questa settimana, non erano visibili roghi significativi anche nel pomeriggio di ieri. Ciononostante, gli elicotteri hanno continuato a passare sistematicamente tutto il giorno per bagnare dall'alto le zone più a rischio, anche la zona dell'Isert. Tutto il territorio secco nonostante la poca pioggia caduta nella notte di sabato è un enorme braciere a cielo aperto ed è meglio non cantare vittoria troppo presto, almeno fino a domani, quando stavolta i temporali dovrebbero arrivare consistenti. Dall'alto, soprattutto sulla parte slovena, sono stati usati anche termorilevatori in grado di individuare eventuali nuovi focolai da spegnere tempestivamente. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora spostiamoci in Varresia, dove l'isolamento causato dai roghi non è stato ancora rotto. Il bypass realizzato per evitare la caduta di massi sulla provinciale non è ancora utilizzabile. Qualche giorno fa l'incendio era fuori controllo. La situazione è migliorata, ma nemmeno la pioggia caduta tra sabato e domenica ha spento del tutto le fiamme. La viabilità rimane critica, i 1000 abitanti di Resia restano semi-isolati, possono uscire solo in caso di necessità. Stiamo aspettando la colonna per ritornare su perché io ho medicinali in valigia, che gli antistaminici per le punture d'api, e quindi anche per quello sono riuscita a scendere. Ancora troppo pericolosa, l'unica strada che porta in valle, massi continuano a cadere all'improvviso come conseguenza del rogo. Gli spostamenti vanno limitati il più possibile, ci si muove solo scortati da un mezzo della protezione civile. Pierino è tra gli autisti. Io rischio abbastanza. Ha visto massi cadere davanti a lei? Sì, anche stamattina uno mi è passato a 3-4 metri. Il bypass sul greto del torrente terminato non si può ancora utilizzare fino alla messa in sicurezza del tratto di strada da cui non si può deviare. Si sta lavorando in tal senso. Il concetto del bypass è un concetto parziale perché affronta il primo tratto della strada per arrivare a Resia. Bisogna avere pazienza, è la parola d'ordine che ho dato a tutti oggi. Avere pazienza. Parola della sindaca Anna Micelli, che continuerà a giustificare gli assenti dal lavoro. Molti però non ne approfittano. Matteo, per esempio, ogni giorno va al supermercato di Tolmezzo che dirige e lo fa camminando per un'ora su un sentiero che lo conduce alla sua auto a Risiutta. Il ritorno con 30 kg in spalla, viveri per la sua attività di famiglia e per i vicini. Perché non andare con l'auto direttamente da qui? Perché i soccorritori hanno già abbastanza lavoro per spegnere l'incendio e per servire le altre persone. Io che ce la faccio preferisco fare il tragitto a piedi e affidarmi alle mie forze. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo ai temi del lavoro. Mercoledì il tavolo urgente sulla Wärtsilä al Ministero dello Sviluppo Economico, dopo l'annuncio da parte del gruppo finlandese della dismissione degli impianti produttivi dello stabilimento di San Dorligo della Valle, i lavoratori continuano il presidio ai varchi anche in una situazione di caldo opprimente. Non si sono attenuate le preoccupazioni, benché l'azienda abbia dato la disponibilità a partecipare alla trattativa. La chiusura dell'impianto produttivo di Bagnoli della Rosandra, decisa dal gruppo Wärtsilä, non è giustificata da alcuna logica di tipo industriale. Ne sono certi i sindacati e i 450 addetti che rischiano di perdere il posto se il colosso finnico della meccanica decidesse di andare fino in fondo. Le performance produttive dello stabilimento giuliano sono le più alte in assoluto all'interno del gruppo, rivendicano i lavoratori. Una mossa quindi antieconomica per la stessa Wärtsilä, che segue logiche più che altro politiche sulla scorta di quei 100 milioni di euro a fondo perduto che Helsinki ha messo sull'impianto di Vaasa per rimpatriare la produzione. Una politica aziendale, dicono i sindacati, che negli anni ha già portato alla chiusura di altri centri di produzione in giro per il mondo. Proprio per questo, sostiene la Confindustria Alto Adriatico, compattamente schierata a difesa dell'impianto di Bagnoli, occorre che siano i governi italiano e finlandese a confrontarsi direttamente sulla questione. Mercoledì i rappresentanti dei lavoratori saranno ricevuti al MISE dal ministro Giorgetti e chiederanno che Roma faccia valere tutto il proprio peso a livello bilaterale e in sede europea per scongiurare la definitiva deindustrializzazione dell'area giuliana. Il rischio è che, dopo la cessazione della linea produttiva, Wärtsilä possa voler chiudere anche il reparto di ricerca e sviluppo, al momento non toccato dal piano di ridimensionamento. Lo dimostra la forte partecipazione degli impiegati alle manifestazioni di proteste indette dai sindacati a fianco degli operai e la loro vicinanza al presidio continuativo che da giorni è stato istituito ai cancelli dell'azienda. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si svolge oggi a Tricesimo il congresso regionale della UIL che vedrà la presenza del segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri. I lavori si apriranno alle 10:15 al Belvedere. Nel programma anche una tavola rotonda a cui parteciperanno tra gli altri l'assessora regionale al lavoro Rosolen e il segretario del Consiglio sindacale europeo Luca Visentini. Si partirà naturalmente dalla relazione del segretario regionale Matteo Zorn che abbiamo raggiunto al telefono. Non si può aspettare il nuovo governo, afferma il vostro segretario nazionale. Servono scelte immediate, dice. Quali in regione? Noi chiediamo sicuramente degli aiuti su inflazione e bassi salari. C'è un problema di pensioni e di lavoro precario e quindi chiediamo un ripensamento delle politiche nazionali e europee. Serve sicuramente un intervento sulla contrattazione collettiva per favorirla, quindi uno sforzo collettivo, sindacati, politica per avere un nuovo modello di sviluppo, un nuovo modello contrattuale, riduzione del cuneo fiscale e detassazione degli aumenti contrattuali. C'è un problema dei paesi di povertà, e le diseguaglianze sono 30 anni che stanno aumentando, in particolar modo negli ultimi 2 anni con la pandemia e la guerra russa-ucraina. Insomma, serve uno sforzo collettivo per affrontare queste grandi diseguaglianze sfide che abbiamo di fronte. Energia, ambiente, politiche per la famiglia, e c'è un'industria, come insegna il caso Varzila, che rischia di venirci sottratta. Là ci sono due temi, uno che è quello delle partenze, dell'occupazione, che va assolutamente salvaguardata. Dopo c'è il tema della deindustrializzazione del territorio, quindi non possiamo permetterlo, uno sviluppo economico armonioso, virtuoso, deve essere diversificato e quindi l'industria deve essere centrale in Firenze Giulia e la nuova meccanica su Trieste. Aggiungo che sono dei multinazionali che per mere logiche di profitto, senza nessun tipo di etica sociale nei confronti della comunità, del sindacato, dei lavoratori, delle istituzioni, decidono di fare queste operazioni che noi non accettiamo e non accetteremo. 7:29 minuti, il punto sulla pandemia, ancora in calo i contagi in Friuli Venezia Giulia, l'ultimo bollettino ne conta 1129 contro i quasi 1400 di una settimana fa, l'incidenza scende a 1000 circa casi per 100.000 abitanti in una settimana, sostanzialmente stabile il tasso di positività intorno al 20,5% su circa 5.500 tamponi analizzati. Peggiora invece la situazione negli ospedali, c'è una persona in più in terapia intensiva per un totale di 7, mentre è cresciuto di 15 unità il numero di pazienti positivi nei reparti ordinari, ora sono 296. Resta complicata la situazione nei pronto soccorso, dove agli afflussi dei pazienti si somma l'assenza del personale in ferie e degli operatori a loro volta contagiati. I problemi sono stati evidenziati in particolare per l'ospedale di Udine da una nota del NURSIND. Il sindacato delle professioni infermieristiche sottolinea la criticità dei carichi di lavoro, troppi pazienti per pochi addetti. Ecco cosa risponde Mario Calci, direttore del pronto soccorso di Udine. Nella giornata di sabato il pronto soccorso di Udine ha vissuto un momento di criticità legata all'iperafflusso di pazienti Covid positivi con necessità di ricovero. Questo a fronte di reparti già pieni di pazienti Covid, di positivizzazione all'interno dei reparti non Covid e di assenze dovute alle ferie, alla riduzione dei reparti operativi, ma anche alle malattie di molti infermieri, OS e medici, per cui creando un momento di difficoltà. Su questo siamo riusciti a detendere la situazione grazie all'aiuto di tutte le strutture dell'azienda e quindi nella mattinata di domenica siamo ritornati a situazioni più gestibili. Speriamo che questa ondata, anche dal punto di vista dei pazienti, si riduca, così come si sta riducendo nell'ambito della popolazione. Questa strategia delle bolle Covid in ogni reparto, secondo lei, è adatta a fronteggiare questi momenti di picco oppure potrebbe essere migliorata? Diciamo che la strategia delle bolle Covid ha permesso di fronteggiare l'incremento del numero di pazienti all'interno dei reparti, per cui evitando la necessità di spostare i malati e quindi garantendo la loro assistenza nell'ambito dei reparti di afferenza, anche quelli chirurgici, cardiologici, garantendo anche una miglior qualità di cure. Il problema è di difficile gestione perché le risorse sono estremamente risicate proprio per il momento, diciamo, estivo, ma anche perché le aziende tutte devono far fronte a una carenza di medici, infermieri e OS. Nel pronto soccorso di Udine abbiamo una struttura che dovrebbe gestire 5, massimo 8 pazienti. In realtà nei momenti di difficoltà arriviamo a gestirne 20, siamo arrivati a 25 sabato. E problemi quindi di spazio, di personale, ma anche di visibilità dell'ambiente, perché purtroppo, essendo una struttura di molti anni fa, la capacità di ventilazione è ridotta e quindi le temperature salgono. La politica in Consiglio regionale e la settimana dei lavori in aula sul rendiconto della regione e soprattutto sull'assestamento di bilancio. Si comincia domani mattina, i due disegni di legge dovranno essere approvati entro venerdì. La manovra di assestamento uscita dalla prima commissione integrata propone di iscrivere a bilancio 764 milioni di euro al lordo dell'avanzo di amministrazione di 43 milioni. Le forze politiche sono dunque al lavoro sulle proposte per questa manovra estiva. Oggi le illustrerà il gruppo consigliare del PD con una conferenza stampa a cui parteciperanno il capogruppo Moretti e il consigliere Cosolini. È intesa a festeggiare Democrazia e Libertà l'iniziativa della pasta asciutta antifascista, evento a memoria dell'offerta di un piatto di pasta a tutti gli abitanti del comune emiliano di Gattatico alla notizia dell'arresto di Benito Mussolini il 25 luglio del 1943. Pasta asciutta cucinata dalla famiglia Cervi, che contava 7 fratelli nella Resistenza. Pastasciutto antifascista per la pace, l'appuntamento organizzato da Ampi Udine con letture di udinesi dell'epoca e la presentazione dell'appello per una proposta di pace dell'Unione Europea. A finire la cena a base di pastasciutta, appuntamento a Udine al Parco di Santo Svaldo nel giardino della Comunità 9 dalle 19. L'anniversario della caduta del fascismo sarà ricordato anche dal Comitato Pace e Solidarietà Danilo Dolci, che ha organizzato a Trieste un presidio in Piazza Unità anche per sensibilizzare sui problemi attuali, dall'accoglienza dei rifugiati, dalla rotta balcanica alla privatizzazione dei sistemi sanitari fino alle crisi occupazionali del territorio. L'appuntamento è alle 18. Nel momento più duro della crisi idrica, violazioni sui prelievi d'acqua sono state accertate nel Pordenonese. Il consorzio di bonifica è corso ai ripari, ma i controlli sono difficoltosi per la scarsità di personale. Più controlli, specie di notte, contro i prelievi abusivi di acqua. Il consorzio di bonifica Celina Meduna ha accertato prelievi non autorizzati da parte di soci che si attaccano alla rete al di fuori delle turnazioni e delle fasce orarie consentite. Violazioni che pesano in particolare sui consorziati a valle del Meduna, che si ritrovano senza fornitura pur avendo diritto ad irrigare le rispettive coltivazioni. Il consorzio è corso ai ripari, intensificando i controlli per individuare i trasgressori e sanzionarli, specie durante la notte, quando sembra che il fenomeno aumenti. Le guardie a disposizione dell'ente sono 8 su un'area di 25.000 ettari, ma a breve saranno individuate forze di supporto. Il presidente Walter Colù si è anche appellato al buon senso dei soci. Siamo tutti nella stessa barca, ha detto, invitando alla solidarietà di gruppo. I temporali sparsi della notte intanto hanno inciso ben poco sulle riserve idriche del bacino di Redona, che resta in grave sofferenza e con un'autonomia limitata a poche settimane. A ciò si aggiunge lo spettro del fango. Non tutte le riserve accumulate infatti saranno disponibili. Più le pompe si avvicinano al fondale, più il fango rischia di intasare filtri e condotte. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le giornate torride hanno dirottato molti sulle spiagge, così anche la domenica bollente di ieri, con l'acqua del mare che è tornata sopra i 28 gradi, a Lignano è stata molto affollata. Sentiamo. In moltissimi hanno scelto di passare quella che sarà auspicabilmente la domenica più calda del 2022 in riva al mare. C'è un caldo esagerato, c'è tantissima gente, però insomma dai, si sta meglio qui che nell'entroterra. Sono partito stamattina da Spilimbergo, c'era ancora più caldo. Che fa veramente tanto caldo, perché si ferma l'aria, adesso si è già fermata. Finché non arriva la brezza da sud è pesante. E dall'una alle tre vanno a casa? Non tutti. Le strategie quindi per ripararsi dal caldo sono molte e fantasiose. Quelle più efficaci sembrano essere quelle che fanno scordare il termometro, magari scoprendo nuove abilità e vecchi giochi. Questo nonno austriaco ci spiega che ha iniziato a costruire il castello con i nipotini, che sono andati però a prendersi un gelato, e così a lui non rimane che consolidare la fortificazione. La turista slovacca assicura che bagnarsi le caviglie rinfresca la giornata, ma per una nuotata preferirebbe acque più profonde. Questione che non rabbuia affatto questi ragazzi di Codroipo. In acqua. Federico invece è arrivato da Milano con gli amici. Ma di solito stiamo in casa col condizionatore, poi andiamo al mare al pomeriggio, facciamo il bagno, ci rinfreschiamo così. La spiaggia rimane affollata e i bar pure. Weekend super affollati e in settimana forse un po' meno. E gli alberghi? Finora è andata bene. Siamo preoccupati un po' per il mese di agosto, perché ci sono meno prenotazioni del previsto. Non so se dipende dal troppo caldo, se dipende dall'incendio. O forse anche dal Covid, che ci fa prenotare all'ultimissimo momento per evitare disdette last minute. Certo è che per fare un primissimo bilancio della stagione bisognerà aspettare che passi almeno Ferragosto. Lignano, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si intitola Ecologia quantitativa umana, la conferenza dedicata alla relazione tra organismi e ambiente. Tra gli obiettivi la promozione di consenso scientifico su sfide centrali per la sostenibilità, come la crescente disuguaglianza e le crisi demografiche, integrando il confronto con statistica e demografia. In calendario fino a mercoledì 27 la conferenza, in inaugurazione all'ICTP di Trieste alle 9, includerà oggi gli interventi dell'economista Partha Dasgupta, docente all'Università di Cambridge, che analizzerà l'economia della biodiversità, e dell'ecologista Pablo Marquet, docente all'Università Cattolica del Cile, sulla spirale socio-ecologica. Ne abbiamo parlato con l'organizzatore Matteo Marsili, ricercatore dell'ICTP. L'obiettivo di questa conferenza è quello di identificare quei temi in cui la ricerca di base sia importante. Un aspetto che abbiamo identificato è l'interazione interdisciplinare, per questo appunto abbiamo coinvolto sia demografi, economisti, biologi, ecologi, fisici. C'è molta ricerca, diciamo, applicata in ognuna di queste discipline, però diciamo la percezione che sia importante anche identificare quelle che sono le interrelazioni. Tra le varie emergenze che sono trattate dei problemi ecologici, quali secondo voi hanno le priorità? Sicuramente l'integrazione della dimensione umana. Noi come specie siamo diventati la specie dominante sul nostro pianeta e quindi quali sono gli effetti e i feedback tra l'ambiente, il clima, i sistemi biologici e l'economia e la demografia. La pagina della cultura e degli spettacoli, il Mittelfest di Cividale, celebra il centenario pasoliniano con Rosada, che alle 22 porterà sul palco del Convitto Paolo Diacono le poesie del periodo di Casarsa. Ci sono La tromba e il flicorno di Paolo Fresu a fare da sfondo all'interpretazione di Nicola Ciaffoni al canto di Elsa Martin. La produzione è del Teatro Stabil Furlan. Gli appuntamenti di oggi si apriranno alle 17.30 con lo spettacolo di danza One One One all'Orto delle Orsoline, alle 19.30 poi nella Chiesa di San Francesco la prima di Apollo on Socragete, sofisticato in fra Satie e Stravinsky, progetto del Conservatorio Tartini di Trieste che domani sera sarà replicato al Castello di San Giusto. Onde Mediterranee torna al nuovo Teatro Comunale di Gradisca con il terzo appuntamento dopo la Lectio di Umberto Galimberti e l'incontro con Angelo Floramo. Il terzo appuntamento è con Paolo Rumiz e il suo Canto per l'Europa. L'inizio alle 21 con l'autore in dialogo con Fabio Turchini. Poi il reading in cui Rumiz sarà affiancato da Lara Comar e Giorgio Monte alla recitazione e dai musicisti Alexander Karlic e Vangelis Mercuris. La musica al Verdi di Pordenone in programma questa sera è Concerto per la Pace con l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna diretti da Oksana Liniv. Ucraina è prima donna in Italia a dirigere un teatro d'opera. La sua nomina risale allo scorso ottobre, dunque alcuni mesi prima dello scoppio della guerra, contro la quale non ha poi mancato di schierarsi. Di un giovane compositore ucraino, Luca Taras, anche il brano che aprirà la serata, Choral Freedom, da poco composto e dedicato alla situazione di quel paese. Ma il programma è centrato sulla Nona Sinfonia di Beethoven, monumento alla musica e all'umanità. L'ingresso è libero, l'inizio alle 20.30. E ora ci spostiamo a Gorizia, dove stasera si apre Musiche dal Mondo. Una grande firma del funk per il primo appuntamento della rassegna organizzata da Circolo Fain e Controtempo al Teatro Verdi alle 21. È il trombonista Fred Wesley, uno dei protagonisti della stagione d'oro inaugurata da James Brown, di cui è stato tra i musicisti, ma è stata soprattutto da sua collaborazione con Ike e Tina Turner a dargli la grande notorietà, per tacere poi delle numerose collaborazioni con i giganti, dal soul al blues, da Ray Charles a Count Basie fino a Van Morrison. 79 anni compiuti da poco, Wesley ha una straordinaria energia e lo conferma il numero delle date del tour con la sua band. È reduce dalla Sardegna e dal Festival di Porrette in Italia e dopo Gorizia mercoledì sarà a Zara in Croazia. Questa edizione di Musiche dal Mondo è dedicata a Fulvio Coceani, colonna portante dell'organizzazione scomparso pochi giorni fa. Il blues domina invece a Trieste con il concerto al Castello di San Giusto di Dana Gillespie, la regina britannica del genere, e di Ronnie Jones, statunitense che in carriera vanta decine di collaborazioni, tra cui quelle con Cream, Led Zeppelin e Who. Una miscela potente, quella dosata dal chitarrista triestino Mike Sponza, anima del progetto, che ritorna da protagonista sul palcoscenico di casa. Si comincia alle 21.00. Altri appuntamenti di oggi: comincia una nuova stagione di Note di Spezia, il festival itinerante che per questa quarta edizione si svolge sotto la direzione artistica di Cristina Santin. Apertura a Duino alle 20.45 nell'auditorium del Collegio del Mondo Unito con le giovani musiciste Sara Schisa, violino, e Maria Iaizza, pianoforte. Un assaggio della prossima stagione del Teatro Comunale di Monfalcone stamani nella conferenza stampa che anticiperà alcuni degli spettacoli del nuovo cartellone. A parlarne con i giornalisti saranno il direttore artistico della stagione musicale, Federico Pupo, e il direttore dell'ente regionale teatrale, Renato Manzoni. E sarà annunciato questa mattina il vincitore 2022 del premio letterario Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi e del tempo, ideato dalla regione con la Fondazione Pordenone Legge. Le prime due edizioni sono state vinte da Valerio Massimo Manfredi e Melania Mazzucco. Il mezzosoprano Daniela Barcellona e il direttore d'orchestra Alessandro Vitiello saranno i docenti della masterclass di canto lirico che si aprirà fra un mese esatto a Trieste. Possono partecipare studenti, diplomati e laureati di licei, conservatori e scuole musicali per un massimo di 30 allievi. I migliori allievi prenderanno parte al concerto finale in programma il 31 agosto. Il bando è consultabile sul sito dell'associazione Amici Gioventù Musicale che organizza la masterclass in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi. Le 7.44 minuti, siamo alla pagina dello sport, calcio, sconfitta dell'Udinese nell'amichevole di Lienz contro la nazionale del Qatar, campione d'Asia. La partita si è chiusa sul 2-1, tutte le reti nel primo tempo, di Benkovic quella friulana. In campo a sorpresa anche Pussetto, schierato da Sottil nei 20 minuti finali. Oggi ultimo test dei bianconeri nel ritiro austriaco, alle 12 affronteranno i ciprioti del Paphos. Ieri in campo anche il Pordenone che ha affrontato i dilettanti del Maniago Vajont vincendo 7-0. In evidenza Candellone con una doppietta. Giovedì la Lega Pro definirà la composizione dei tre gironi che riguarda anche la Triestina. Tennis: Francesco Passaro ha vinto il torneo ATP Città di Trieste organizzato sui campi di Padriciano dal Tennis Club Triestino. In finale ha battuto in rimonta il cinese Zhang 4-6, 6-3, 6-3 per il tennista perugino che dopo tre finali perse conquista un torneo che gli permette di entrare fra i primi 150 giocatori al mondo. Sentiamolo. Quando provavo a tenere in mano il gioco col mio dritto e a farlo muovere era la chiave vincente. L'avevo preparata col mio allenatore, ma poi ero un po' tesa all'inizio, quindi non sono riuscito a metterla in pratica. Però comunque sì, mi sento molto bene in campo, fisicamente sto benissimo. E quindi adesso sono anche molto in fiducia, quindi sono contento, dai. 100 punti importanti per poter scalare la classifica e andare avanti nel corso della stagione, magari con obiettivi ancora più importanti. Sì, sicuramente è una cosa molto importante salire di classifica, però io cerco di migliorarmi, diciamo partita su partita, cercare di migliorare il mio gioco perché ancora sono giovane e non vorrei pensare troppo al ranking e credo che se lavoro bene e faccio le cose giuste arriverà il momento che salirò quello che dovrò. Hai vinto un bel challenger, settimana importante, una dedica particolare? Ah, sicuramente la dedico a tutta la mia famiglia, al mio allenatore Roberto, a Lorenzo, tutta la federazione che mi sta aiutando molto, al mio preparatore mentale e a tutti i miei amici che mi seguono da casa e comunque mi supportano giorno per giorno. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Tennis anche a Cordenone con il torneo internazionale femminile che ha visto gli incontri del primo turno delle qualificazioni. Subito fuori la bolognese Stefania Rubini, vincitrice nel 2016 per mano di Agnese Zucchini. Out anche Lisa Pigato, eliminata in 3-7 dalla romena Sciabo. La promessa friulana Marcon è stata invece battuta da Martina Di Giuseppe. Sorteggiato intanto il tabellone principale, la numero 1, l'ungherese Udvardi, debotterà contro Federica Urgesi. Atletica leggera, buoni risultati tecnici al meeting del CUS Trieste che si è svolto al Grezzari in coincidenza con la prima giornata degli Alpe Adria Games. Di spicco i 100 maschili con il successo dello sloveno Prapotnik in 10.38, nuovo record nazionale davanti al compagno Gumilar, 10.47. Il friulano Enrico Saccomanno nel disco ha lanciato a 54 metri e 60, mentre lo sloveno Subasic Ivanovic ha ottenuto 7,45 m nel salto in lungo. Tra le donne, Aurora Berton della Libertas Friuli ha vinto i 100 in 11,67, mentre Giada Carmassi si è imposta nei 100 ostacoli in 13,30. 7.47, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. L'apertura del Messaggero Veneto informa sugli incendi in regione. Dal Carso al Friuli, oltre 3.500 ettari distrutti dal fuoco, è il titolo. Sull'edizione di Udine anche la fotonotizia si occupa di questo tema, per poi passare alla nota diffusa dal Nursind sulle criticità in pronto soccorso causa Covid e alle modalità con cui i medici di base da oggi possono somministrare la quarta dose di vaccino anti-Covid con adesioni su base volontaria e la possibilità di servizio a domicilio per pazienti con difficoltà motorie. Per il calcio la frenata della trattativa d'ingaggio di Perez nell'Udinese, Udinese che pare poco propensa a riconoscere le richieste dei procuratori del calciatore argentino. L'edizione di Pordenone del Messaggero in capocronaca parla della riqualificazione del quartiere di San Giorgio con la demolizione di Villa Franceschini e del panificio. Per la cultura un'anticipazione della 18ª edizione del Festival FMK che da domani in centro città proietterà cortometraggi da tutto il mondo. Il Piccolo dedica l'apertura dell'edizione di Trieste al comparto dell'accoglienza, più infrastrutture e grandi eventi per attrarre i turisti. Il dibattito tra le forze politiche sul rilancio del settore e tra i temi del lavoro varsila in bilico per Luca Visentini, che oggi sarà al congresso regionale la strada, congresso regionale della UIL, la strada e la nazionalizzazione. Il Quotidiano pubblica un'intervista con il console generale statunitense a Milano, Needham, che parla del porto di Trieste, va difeso, dice, dalle mire di paesi pericolosi. Ampia la pagina politica, tutta sui temi nazionali, ma è tutta la prima parte del giornale, naturalmente dedicata ancora alla situazione degli incendi, titolo principale per l'edizione di Gorizia e Monfalcone, verso una tregua in Carso. Gli sfollati tornano a casa, sotto controllo i focolai vicino a Gorizia, migliora la situazione sul fronte sloveno, attesa per la pioggia. E in prima pagina c'è anche richiamo a un'intervista con il climatologo Luca Mercalli. Se non fermiamo il riscaldamento del nostro pianeta, dice, i roghi torneranno. Infine, da Gorizia parla il nuovo assessore comunale Negro, grande attenzione ai quartieri, il suo programma. Il Gazzettino apre sui sopralluoghi dei sindaci dei comuni coinvolti dagli incendi per una prima valutazione dei danni. Altro servizio in tema, quello sui possibili danni a causa del ristagno dei fumi. Spazio poi al monitoraggio degli esperti immobiliari in regione che registrano la fuga dei negozi dai centro città per aprire nelle periferie, meno care negli affitti e nelle spese di gestione. L'edizione di Udine del Gazzettino informa sul patto firmato tra la Brigata Alpina Giulia e il Soccorso Alpino per inquadrare la collaborazione nelle emergenze. Altro servizio, quello sulle difficoltà al pronto soccorso di Tolmezzo, evidenziate da una lettera del Nursin dalla dirigenza del nosocomio, in cui si evidenzia come la riorganizzazione fatta a giugno nella struttura si sia riflessa con esiti negativi sulla carenza di personale. L'edizione di Pordenone del Gazzettino si occupa dei conti in rosso del consorzio universitario, nonostante i 1.600 studenti, a causa del taglio di 60.000 euro di contributi regionali che ora non consente di pagare le bollette energetiche. Per il calcio la vittoria per 7-1 a favore dei Ramarri contro il Maniago Vaiont. C'è tempo fino al 22 agosto per aderire al bando di concorso del Comune di Trieste per agenti di polizia locale. Di poco superiore a 23.000 euro lo stipendio annuo, 30 i posti disponibili, di cui 10 riservati a militari e disabili. I candidati di età compresa tra i 18 e i 35 anni devono possedere un diploma di scuola di secondo grado e conoscere l'inglese. Altro requisito, l'assenza di visibili alterazioni volontarie dell'aspetto, come per esempio i tatuaggi, che non pregiudicano la partecipazione alle prove, l'inserimento in graduatoria, ma l'eventuale assunzione. Le candidature si possono inviare solo all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio concorsi del Comune. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Il programma in friulano si occuperà del consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, la cui assemblea ha rinnovato le cariche. Alle 11.20 andrà in onda la quarta puntata di La Radio che Pedala. La puntata è dedicata a Trieste, con il punto sul bike sharing e le ciclovie urbane, un'intervista al presidente dell'associazione Ulisse, sezione locale della FIAB, e due itinerari sulla ciclabile Cottur. Alle 11.55 l'appuntamento con Fotoradiografie, il programma dedicato quest'anno al rapporto tra cinema e fotografia. Sfilate di moda e modelli al centro della puntata di oggi. È tutto per questa edizione, realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Viola Romanese Maurizio Mona, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Sono le 7.53 minuti in punto, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali. Grazie per averci seguito e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.